24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui alle 7:23 minuti, eccoci. Buongiorno cari ascoltatori. Oggi parleremo delle tensioni sociali in Italia. Avremo ospite, ve lo dico subito alle 8:20, l'avvocato di Diego Armando Maradona, lui e il suo contenzioso con il fisco italiano. Poi avremo ospite Paolo Ferrero di Fondazione Comunista, Fiorenza Sarzanini, giornalista inviata del Corriere della Sera. Di questo parleremo più avanti. Corriamo subito a leggere i quotidiani in edicola. Martedì 15 maggio e tutti gli occhi puntati su quello che succede in Europa. Vedete subito i titoli dei giornali. Il Sole 24 Ore apre così: Grecia e i derivati affondano le borse europee. Per il Corriere della Sera, l'Europa sotto tiro cerca un piano. Per Repubblica, lunedì nero in borsa, vola lo spread. La Stampa, l'Europa spaventa le borse. Il Giornale, Monti non si salva. Per il Messaggero, la crisi greca affonda le borse. Il Fatto Quotidiano, euro, la Grecia quasi fuori e Monti non sorride più. E vedete, questo è il tenore dei titoli, è l'unità a rigore strangola l'Europa. Il Manifesto, c'è la foto di Angela Merkel, chi di spread ferisce, puntini puntini, e così via. Vedremo anche altri titoli dei giornali più avanti. Voglio subito andare a raccontare che cosa è successo ieri in Parlamento alla Camera. Il disegno di legge sul taglio ai rimborsi elettorali, cari ascoltatori. Poi uno dice... tutti spot per l'antipolitica, se esiste questa parola, che sarebbe forse da abolire. In ogni caso, che cosa è successo ieri? Seduta alla Camera, si discuteva su Italia rimborsi elettorali. Camera semideserta. Pagina 11 del Corriere della Sera, in 20 al dibattito sulla riduzione del 50% dei rimborsi elettorali. Scrive Dino Martirano, presente in aula, una ventina di deputati. Sotto gli sguardi esterrefatti degli studenti di tre scuole di Canosa di Puglia, Adelfia e Umbertide, che erano in visita a Montecitorio. È andata così alla Camera la discussione sulla riforma che taglia del 50% il finanziamento ai partiti da 182 a 90 milioni di euro. Presenti i relatori Bressa e Calderisi e praticamente questi sono gli altri: Cambursano, Vanalli, Zaccaria, Tassone, Lorenzin, Favia, Orsini, Misiti, Gava, Iannacone, Borghesi, Giachetti, Lanzillotta, Bernardini, Sposetti. Più o meno il Corriere fa l'elenco perché si fa prima a dire quelli che c'erano. Anche Mattia Feltri sulla Stampa fa una pagina su questo. Si tagliano i rimborsi ai partiti e l'aula diventa sorda e vuota. Pagina 9 della Stampa, scrive Mattia Feltri, il momento più suggestivo è arrivato attorno alle 18:30, quando il sole calante ha proiettato i suoi raggi attraverso le preziose vetrate del soffitto sui banchi del centrodestra, colorandoli di luce crepuscolare. Quasi una predizione e offerta con un tratto poetico, perfino nobilitante. Non c'era nessuno lì a prendersi in volto il bacio del sole. L'unico deputato del PDL a cui pareva interessare qualche cosa era Beatrice Lorenzin, ora raggiunta, ora abbandonata dal collega Simone Baldelli, che forse per l'istinto umano del branco era andata ad accamparsi sugli scranni centrali in basso, quelli occupati dai relatori della legge. Insomma, un altro pomeriggio volenterosamente dedicato dalla politica al nutrimento dell'antipolitica, e sembrerebbe pure l'unico progetto a lungo termine dei protagonisti di questa legislatura, poiché l'aula viveva momenti dinamici quando sulle tribune una scolaresca lasciava il posto a quell'altra. Ai commessi è toccato spiegare agli studenti che non c'era stata un'epidemia, una sparatoria, una strage, ma semplicemente era lunedì. E il lunedì alla Camera non si lavora, perché è un giorno dedicato ai trasferimenti, onorevoli in viaggio da Siracusa, Asti, Forlì, Chieti, verso Roma. Lo si dice non per invidia sociale, ma per dare una timida spiegazione visiva della diffusa impopolarità. Il colmo è stato quando il presidente di turno, Lupi, ha chiamato i due relatori della legge, Bressa e Calderisi, e in aula non c'era né l'uno né l'altro, e Bressa è infine arrivato di gran lena, seguito a una lunghezza da Calderisi. È succeduta una discussione di superlativi, la straordinarietà del provvedimento, la miracolosa intesa bipartisan, il giorno indimenticabile, la portata del testo, fino a un sublime richiamo all'attenzione l'aula dell'ottimista Bressa. e infatti erano in realtà in 20. La stampa dice erano in 15, vabbè, sta di fatto che era presente quanto? L'1,5% e fino a un massimo di 2,3% degli eletti del Parlamento quando ci sono stati i momenti di maggiore affollamento in aula. Vabbè, a proposito di casta, vi annuncio anche quello che c'è sui giornali del deputato dell'Italia dei Valori, Francesco Barbato, che sotto inchiesta dalla Procura di Napoli per un imprenditore che dice ai PM di Napoli chiese 20.000 euro per aiutarmi, ha detto che cosa? Mi autosospendo dal Parlamento. Però viene accusato di fare un po' il furbetto. Barbato, indagato, mi autosospendo. Non voglio che si dica che rimango in Parlamento, anche se sono finito in un'indagine giudiziaria. Anche il Fatto Quotidiano dedica una pagina messa sotto una sua foto nella quale fa il chiaro gesto dell'ombrello, noto per essere un po' indisciplinato. Barbato, autosospeso, ma con stipendio. Ebbene sì, ha detto... chiederò al magistrato di essere sentito, su di me non c'è nulla, non voglio che si dica che rimango in Parlamento, e quindi si è autosospeso. Sì, è vero, perde così la diaria di circa 3.500 euro mensili, di circa 203 euro al giorno, ma non perde lo stipendio, perché non è che uno si può dimettere dalla Camera. Dimissioni dal Parlamento, dal Senato, devono essere votate e approvate dallo stesso Parlamento e dallo stesso Senato. E dunque Barbato dice mi autosospendo, qualcuno come il PD Giachetti gli fa notare non faccia il furbino, vuole davvero dimostrare di essere pulito? Si dimetta, cioè proponga le dimissioni e l'Aula le voterà, e se poi le vota stia contento così. Allora, alle 7.35 minuti c'è ovviamente grande timore in Europa per quello che sta succedendo in Grecia e tutti i giornali raccontano della situazione europea come di una situazione difficile che poi si è riversata sulle borse. La paura per la Grecia ha affondato infatti ieri le borse. Sul Sole 24 Ore leggo dalla prima pagina in ribasso: ieri tutti i principali listini europei sono stati bruciati 120 miliardi di euro. Tra le peggiori proprio Piazza Affari, che ha perso il 2,74%. Il timore ovviamente che pesa è quello di un'uscita di Atene dall'eurozona, dell'uscita dall'euro, ma anche la maxi perdita di JP Morgan sui derivati che hanno scatenato una corsa ai Bund. Risale lo spread, l'incubo dello spread a 423, Moody's che ha declassato 26 banche italiane. Insomma, ce n'è per guardare la finanza europea e mondiale e tremare. Tutte le analisi poi Luca Davi a pagina 3 del Sole 24 Ore di come le borse sono cadute sulla Grecia e sui derivati. In questo contesto ovviamente la domanda è questa, ci si pone in Europa: ma davvero Atene rischia di uscire dall'eurozona, rischia di essere il primo paese a uscire concretamente in questa crisi dall'euro? Ieri il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker ha detto: vogliamo mantenere la Grecia nell'euro, faremo tutto il possibile perché ciò accada. Questo da modo alla Stampa, pagina 3, di titolare proprio così: Juncker, la Grecia non uscirà dall'euro. Ma è chiaro che sono momenti difficili anche per l'Italia. Guardate come due giornali orientati diversamente, come Il Giornale e Il Fatto Quotidiano, in realtà si concentrano entrambi sulla figura di Mario Monti. Monti, terrorizzato dall'idea di fallire, questo è il titolo di pagina 3 del Giornale, la sua ricetta non funziona, all'Eurogruppo il Premier chiede meno rigore, ma c'è lo spettro dell'aumento IVA e della patrimoniale in Italia. Il Fatto Quotidiano addirittura la mette su un piano fisico: gli altri paesi votano e Super Mario invecchia in fretta, e c'è un articolo di Luca Telese a pagina 3 dove mettono a confronto due foto di Mario Monti il 16 dicembre, quando Silvio Berlusconi gli ha appena consegnato la campanella di Palazzo Chigi nelle sue mani, quella con cui si convocano i consigli dei ministri, e una foto di 5 mesi dopo, praticamente di qualche giorno fa, il 7 maggio. Sembra che sia passato molto più tempo dall'incoronazione. Mette a confronto una foto ben più celebre, quella di Barack Obama, che dopo un paio d'anni alla Casa Bianca, a Di Bianco, aveva soprattutto i capelli di colpo. con Barack Obama che ha scherzato: diventerò come Morgan Freeman nel giro di 4 anni, l'attore che insomma di anni ne ha 75. Sta di fatto che Luca Telese gioca un po' anche sui cambiamenti fisici. Per la verità nella foto non sembrano poi due Mario Monti cambiati in 5 mesi, però sta di fatto che per il Fatto Quotidiano anche il cambiamento fisico, lo stress, la stanchezza sul volto di Mario Monti, ripeto, per la verità poco percettibile, almeno un occhio non molto attento, sono anche il sintomo di una pesantezza del paese che ce la fa sempre più a fatica. Come a fatica, ed è una situazione che si diffonde un po' in tutta Europa, a fatica, un momento di fatica e di difficoltà lo passa anche politicamente Angela Merkel, dopo la batosta elettorale, anche se lei ha rivendicato non ero io la candidata nel Land del Nordreno-Westfalia, però il suo partito, la CDU, è al minimo storico. Una Merkel dunque più debole riceve Hollande, e sono anche due modi di vedere l'Europa in modo diverso. È il primo incontro bilaterale tra Francia e Germania questa sera, e Alessandro Merli da Francoforte e Marco Mussanè da Parigi per il Sole 24 Ore a pagina 21 raccontano cosa potrà uscire da questo confronto, se la Germania del rigore e dell'austerity come cura di risanamento, che sembra andare sull'orlo del fallimento, insomma, come linea vincitrice, o se l'Olanda se la Francia di Hollande della crescita siano la strategia sia la strategia migliore, beh, lo vedremo oggi. Come d'altronde anche in Grecia sono momenti decisivi, non solo per la fuoriuscita dell'euro, ma legata a questo c'è proprio la crisi politica. La Grecia ormai è sempre più vicina a nuove elezioni, c'è la possibilità di un governo di tecnici, racconta il Corriere della Sera a pagina 5, con il presidente Papoulias che sta cercando di incontrare tutti i partiti per salvare la situazione, ma la situazione più probabile è quella che il 17 di giugno si vada nuovamente al voto. Ecco che insomma la situazione economica e finanziaria è una situazione già a livello europeo e mondiale complicata. In più ci si mette, se uno viene in Italia, le questioni solite. Noi parleremo oggi delle tensioni sociali di vario tipo che ci sono. Beh, intanto l'occhio di riguardo degli italiani è sempre verso le tasse. Oggi il Sole 24 Ore però dà una notizia che conferma un po' già le indiscrezioni di cui ieri parlavamo, vale a dire pare che ci siano delle modifiche in arrivo per quel che riguarda Equitalia. Equitalia, taglio dell'aggio dal 9 al 7%. Il laggio, vale a dire il costo che il cittadino paga all'agente della riscossione, attualmente al 9%, racconta Marco Mobili, sarebbe sul punto di essere modificato. I dettagli dell'operazione che sono ancora tutti allo studio, ma si cercherà di metterli a punto nelle prossime ore. È ciò che i tecnici del Ministero dell'Economia stanno mettendo a punto, quello di ridurre il costo della riscossione senza aspettare la piena attuazione del Salva Italia di 2 punti percentuali, scendere dal 9 al 7%. Per carità, non sarà tantissimo, ma è già qualcosa e potrebbe arrivare nel giro di pochi giorni. Uno però va su Libero, in prima pagina viene messa questo titolo di Libero e si inquieta non poco. Agguato fiscale, questo è il titolo di prima pagina di Libero. Sottotitolo: siamo tutti evasori. La notizia è questa e la dà Franco Bechis, il vice direttore. La lettera, l'articolo lo trovate a pagina 2 dal titolo Lettere ultimatum agguato del fisco. La lettera è arrivata nelle ultime 2 settimane a migliaia di contribuenti, mittente Agenzia delle Entrate con a fianco lo stemma della Repubblica Italiana, tono cortese ma senza troppi fronzoli, anche perché si chiede un vero e proprio ultimatum, si chiede di trasmettere entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate la documentazione originale delle spese, per cui sono state effettuate detrazioni nelle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti. Nella maggior parte dei casi si tratta degli anni di imposta relativi al triennio 2008-2010. Lettere, scrive Bechis, che anche per il tono perentorio stanno suscitando grande agitazione tra i contribuenti che le ricevono. Anche perché quella documentazione che viene richiesta all'Agenzia delle Entrate in molti casi è custodita negli studi dei commercialisti che a maggio stanno facendo ovviamente super lavoro. E poi c'è anche questa beffa. L'ultimatum di 30 giorni è quasi sempre in scadenza per chi riceve la missiva, perché la missiva pare spedita a inizi, nella prima quindicina di giorni di aprile, anche se è stata consegnata ora, nella prima settimana di maggio. Quindi, in pratica, si chiede, nel giro di pochi giorni, di far avere tutta una documentazione che molto spesso la gente tiene dal commercialista. E cosa accade se uno non ce la fa a dare la documentazione? Lo spiega la stessa Agenzia delle Entrate nella sua lettera. Il contribuente diventa automaticamente un evasore fiscale, le spese detratte vengono considerate tutte illegittime, vengono richieste indietro accompagnate da sanzioni e interessi che fanno lievitare di 2 o 3 volte, ma spesso anche di più, il beneficio ricevuto negli anni passati. Insomma, questo è il titolo per cui il Libero mette: ormai siamo tutti evasori, non è più democratico uno Stato che ci tratta come sudditi e invece di aiutarci ci complica la vita. Bisognerebbe denunciare i burocrati per molestie fiscali. Questa è la posizione di Libero riguardo a questa notizia. A me non è arrivata, ma forse a qualcuno di voi è arrivata questa lettera dell'Agenzia delle Entrate che chiede di far avere la documentazione relativa appunto alle detrazioni messe nelle dichiarazioni dei redditi, spesso soprattutto degli anni 2008-2010. In tutto questo c'è un'interessante serie di articoli, tutti prendono spunto da una relazione della Corte dei Conti sui dipendenti pubblici. Ogni italiano spende per i dipendenti pubblici 2.849 euro. È una spesa assolutamente in linea con l'Europa. In Germania si spende 2.830, in Grecia 2.436, ma in Regno Unito un po' di più, 3.118 la spesa pro capite per i dipendenti pubblici. Il problema, racconta la Corte dei Conti, è uno però: la scarsa produttività. E allora, da una relazione della Corte dei Conti, ogni italiano spende in media per i dipendenti pubblici 2.849 euro l'anno. È una spesa in linea con l'Europa, un po' superiore rispetto alla Germania, 2.830 gli euro, ma inferiore rispetto all'Olanda, per esempio, 3.557, il Regno Unito 3.118 euro, addirittura in Francia 4.000 euro per i dipendenti pubblici. Però racconta la relazione della Corte dei Conti che il problema in Italia è la produttività, cresciuta nel 2010 di oltre il 2%, ma tornato lo scorso anno a zero, questo per i dipendenti pubblici, ricominciando addirittura a scendere nel 2012, in linea con le stime dell'andamento del PIL. Dunque il costo del lavoro per unità di prodotto riprende a salire. Cosa, di chi è la colpa? Dell'assenza di meritocrazia, racconta tutto questo Sergio Rizzo a pagina 9 del Corriere della Sera, ma trovate anche sul Sole 24 Ore con Gianni Trovati. Tra l'altro, questa relazione del Corte dei Conti ha bocciato l'intesa sugli statali e, visto di assenza di meritocrazia, è perfetta la storia che racconta a questo proposito il Quotidiano Nazionale a pagina 13. È una storia tipicamente italiana, ma poi sapete, relazioni, numeri. Poi quando uno vede in faccia le persone e le racconta e ne racconta le storie, tutto diventa più concreto. Sentite qui: denunciò i colleghi assenteisti, ora subisco insulti e minacce. È la storia di Ciro Rinaldi, 49 anni, di Napoli, ma residente a Bologna, ex delegato sindacale della CGIL Funzione Pubblica, che ieri ha fatto una conferenza stampa perché, in vista di un processo il 24 maggio che vede imputati di truffa ai danni dello Stato 29 dipendenti del Dipartimento Comunicazioni Ispettorato Territoriale dell'Emilia Romagna, che lui ha denunciato perché andavano in orario d'ufficio a fare la spesa, a fare i giri, facevano gli assenteisti, insomma. Lui li ha denunciati, ci sono le immagini anche in base alla sua denuncia impietose con cui si è dimostrato che in orario d'ufficio questi impiegati andavano a fare la spesa, sbrigavano commissioni, andavano in palestra. Questo coraggioso, dovrebbe essere il suo dovere, e l'ha fatto, ha denunciato queste persone. Da allora, dice, la mia vita è impossibile, insulti, minacce, lettere, volantini contro di me. Io faccio da solo l'ispettore per tutta l'Emilia. In una missiva una collega mi ha scritto: a te penserà la giustizia divina. E ha concluso così: non era più bello vivere in pace? Ecco, questo succede in Italia a chi decide di fare il proprio dovere. Nessuno dei 29 denunciati nel frattempo è stato trasferito. Anzi, racconta il Quotidiano Nazionale, qualcuno è stato promosso. Avete sentito bene, promosso. Allora ve ne da dire, poi uno... perché dovrebbe incitare questa persona che ha fatto il proprio dovere a denunciare a dire bravo, hai fatto bene? No, penserà giustamente di non aver fatto bene. Penserà che, come gli ha scritto quella collega, forse era meglio vivere in pace invece che denunciare un reato e vivere ora così e vedere le persone che devono rispondere di questo reato, alcune promosse nella pubblica amministrazione. Allora, c'è da dire che c'è la politica, la Lega ancora tiene banco, la decisione di Bossi che ha ceduto e ci sarà l'incoronazione di Maroni, ormai la transizione è lenta, nel senso che ci sono dei passaggi, ma come titola la Padania, uniti intorno a Maroni. La Lega sarà sempre più di Maroni, con Racconta il Giornale con Paolo Bracalini, pagina 15, un Umberto Bossi che ormai, quando parla al telefono, piange con i suoi pochi amici. Non ho avuto scelta. Bossi si arrende, la Lega a Maroni. Noi parleremo delle tensioni sociali. Vi segnalo un articolo intervista di Guido Ruotolo sulla Stampa al ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, che dice e ha creato polemiche: la TAV ora è l'elemento che crea più preoccupazioni nella lista dei bersagli. In questa intervista un po' fa marcia indietro dicendo: no, dico che c'è una fetta di opinione pubblica che avversa l'opera, è vero, ma non ci sono più margini di trattativa per bloccare i lavori. Il timore è, penso, a frange della popolazione di Val di Susa che potrebbero trovarsi in sintonia con i NOTAV e gli anarco-insurrezionalisti. Insomma, vedo questo rischio, e vedo il rischio soprattutto per quanto riguarda Equitalia e l'Agenzia delle Entrate. Riguardo agli obiettivi, sono talmente tanti che c'è l'imbarazzo della scelta. Questo comporta da parte nostra un'attenta vigilanza, attività di prevenzione, intelligence e repressione. Così il ministro dell'Interno. Ma ne parleremo alle 8:30 anche con questa notizia, proprio sempre data dalla Stampa. Sapete quanto costa il presidio interforze di Chiomonte? Il presidio per mantenere, per evitare che sia tutto tranquillo, può arrivare fino a un costo di 90.000 euro al giorno. Poi uno dice che la TAV alla fine costerà di più, no? 90.000 euro al giorno nei giorni di maggiore tensione per tutti i poliziotti che sono schierati lì. 90.000 euro al giorno. Ebbene sì. Che dire? Devo chiudere in 10 secondi? Sì, è un non è una barzelletta, è sul Corriere della Sera, pagina 11, è arrivata una nuova... un nuovo curriculum proposta a Mario Monti, mi accauto candido a presidente della RAI, Cino Tortorella, il mago Zurlì, e porterò come mio consulente Topo Gigio. Oh, non è una barzelletta, pagina 11 del Corriere della Sera. Cino Tortorella mi candida alla presidenza della RAI. Se Monti non mi sceglie, non farò lo sciopero della fame perché mi piace mangiare e mangiare bene. Ma mi candido veramente. Con Topo Gigio. Topo Gigio alla presidenza della RAI è un sogno che veramente spero si avveri. 24 mattino. Eccoci qua, sono le 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, con Equitalia si sa, molti italiani hanno problemi contenziosi. C'è anche un VIP, uno dei più grandi calciatori al mondo, forse ex calciatore, forse uno dei più grandi di sempre, Diego Armando Maradona, di cui saluto l'avvocato Angelo Pisani. Avvocato Pisani, buongiorno. Ci sente? Avvocato, eccoci qua. Ci sente? Io buongiorno la sento. A tutti. Salve, buongiorno, buongiorno avvocato. Buongiorno. Lei è l'avvocato del PIB de Oro, Maradona, sì, che ha questo contenzioso col fisco. Notizia è che Equitalia ha deciso di non aderire. Voi cosa proponevate per chiudere questo contenzioso col fisco? Di pagare quanto? Ma Maradona, oltre a essere estraneo ogni responsabilità sportivamente, ha offerto anche 3 milioni e mezzo di euro per l'organizzazione di un centro d'ascolto a favore dei contribuenti. Quindi un ennesimo gesto sportivo da parte di Maradona dopo essere stato perseguitato per 25 anni da una cartella pazza. Lei dice anche lui ha avuto la cartella pazza. Perché, in che senso dice cartella pazza? È una cartella, perché, anzi, cartella non si può definire perché non esiste la cartella. Diciamo che è un avviso di mora pazzo, perché non esiste l'accertamento presupposto, non perché lo dice la difesa di Maradona, ma perché i giudici italiani nel 1994 hanno annullato gli accertamenti fiscali a carico della società calcio Napoli, che erano gli stessi che poi erano a carico del giocatore Diego Armando Maradona. Quindi, non essendoci l'accertamento iniziale, non essendoci la violazione, non può esserci un colpevole. Quindi lei dice, pur non avendo responsabilità, sportivamente si era offerto di dare 3 milioni e mezzo per un centro d'ascolto. Però sa cosa ha detto di recente Attilio Befera, no? Il capo di Equitalia e Agenzia delle Entrate, in un'intervista a cena col nemico Diego Armando Maradona, insomma uno che ci deve tanti soldi con interessi anche aumentati e galoppanti. Questa è la posizione del fisco italiano, avvocato. Invece Maradona ha invitato Befera a chiarire la situazione, a guardare le carte, perché in Italia purtroppo tutti parlano ma pochi leggono le carte. Anche ieri sera a Porta mi sono accorto che il ministro e tante altre persone parlavano di Equitalia, ma purtroppo non conoscevano i fatti, non conoscono le procedure che ossessionano tanti contribuenti, fanno finta di non conoscere gli errori complessivi della discussione. E lo stesso Befera, invitato invece da Maradona a cena a Napoli in un ristorante per discutere, per chiarire per tutti, anche per la stessa Italia, questa faccenda, ha detto di no. Ha detto di no. Senta, avvocato, però c'è questa questione, cioè Maradona che ha detto tramite lei, capisco benissimo le persecuzioni di tutti gli italiani, io che sono perseguitato da anni, capisco anche le persone che arrivano a spingersi a togliersi la vita, a pensare a questa cosa. Non è davvero una posizione esagerata, ha detto, da una persona che non ha certo bisogno di soldi? Guardi, io assisto Maradona come assisto anche semplici operai e dipendenti pubblici, quindi gente normalissima. Maradona è stato veramente perseguitato per 25 anni. Pensate che ogni qualvolta tentava di mettere piede in Italia, anche in momenti difficili per la sua vita, veniva braccato all'aeroporto da 30 finanzieri che gli strappavano gli orecchini. E come no, l'orecchino, l'orologio. Quindi, diciamo, Befera se ne fa un vanto, dice: gli abbiamo preso un orecchino. Appunto, se essere perseguitato, essere, diciamo, privato dei propri beni personali, un orologio regalato eventualmente da un amico, dalla mamma, da qualcuno, non è una violazione della dignità e non è una mortificazione dell'immagine se per 25 anni ti considerano un criminale, quando invece esistono sentenze che dichiarano che sei completamente estraneo ai fatti. Non si tratta di un'evasione fiscale oppure di un'idea imprendo. Maradona, nella faccenda fisco, veramente non c'entra nulla. Ma cos'è allora? Cioè, hanno deciso di accanirsi su Maradona? Cioè, Befera non legge le sentenze? Il fisco italiano se ne fa un baffo delle sentenze italiane? Cioè, mi sembra... Allora, se Equitalia leggesse le carte e controllasse le procedure esecutive prima di metterle in atto, sicuramente il 90% degli errori non ci sarebbe. Ma Befera, Equitalia fa parte dello Stato, è un'agenzia dello Stato, quindi sapranno, cioè, avranno le sentenze anche adesso. Non dobbiamo fare il processo qui a Radio 24, io non è che sono il giudice che devo decidere, però mi immagino che avendo le sentenze applicano delle sentenze. Ma no, non solo hanno le sentenze, fingono di non conoscerle. Noi ovviamente le pubblicheremo e le faremo conoscere al mondo intero, perché è giusto che la giustizia prevalga sempre. Purtroppo la giustizia molto spesso arriva in ritardo, ma arriva, perché il tempo è il miglior giudice. Addirittura ieri, da un consulente milanese, Maradona è stato paragonato a Enzo Tortora per l'ingiustizia. Appunto, anche questo infatti l'ho sentito. Enzo Tortora. Le sembra un paragone? Ma le sembra un paragone azzeccato? Ma certamente, perché Enzo Tortora ha subito un processo, seppur sbagliato, ma ha subito un processo. Poi in Cassazione è stato assolto, quando ormai era troppo tardi. Maradona invece non ha neanche subito un processo, perché ricordiamolo a tutti, Maradona non è stato mai condannato da nessun giudice. Per questo, per Italia, questo una sentenza di condanna contro Maradona. Per questo lei ha querelato, infatti, lei ha querelato anche, ha provveduto a querelare un senatore, credo, della Lega, che ha detto Maradona è stato condannato, e lei lo ha querelato. Ma secondo lei Maradona è paragonabile a Enzo Tortora? Ma secondo me sì, però l'unica differenza è che Enzo Tortora è morto per una sentenza sbagliata, quindi per il dispiacere di una mortificazione, di umiliazione che non augura a nessuno. Maradona invece soffre per una sentenza che non esiste di condanna e per una persecuzione fatta da Equitalia. Il problema è che Equitalia in Italia non viene controllata da nessuno, è l'unico organismo al di sopra della magistratura che può agire in esecuzione nei confronti dei contribuenti e poi casomai dopo si vedrà se qualcuno riesce a difendersi. Senta, ma questa idea di Maradona che dice capisco i suicidi non è una frase fuori luogo, vale a dire, cioè Maradona sì può essere, lei dice ci può essere accanimento nei suoi confronti, ma voglio dire, le persone che si suicidano in Italia sono persone strozzate dai debiti, persone che non ce la fanno più, persone che hanno perso tutto. Maradona avrà un capitale da parte con cui può andare avanti per una e varie vite ancora, no? Allora voglio chiedere anche per tutti voi, Maradona non ha detto solo capisco i suicidi, Maradona ha detto io capisco cosa si prova e qual è l'ossessione, la disperazione di un contribuente che quando ha ragione non sa come difendersi, perché io per 25 anni subisco queste persecuzioni, mi hanno ossessionato, mi hanno perseguitato e ancora oggi che cerco di far leggere una sentenza a mio favore, non esistendo sentenza di condanna, non riesco a trovare un interlocutore nello Stato italiano che legga le carte, come sì. Ieri si dà anche a Porta a Porta, sì, non c'era nessuno che conosceva le carte a favore di Maradona, e non si tratta di dover leggere due tipi di sentenze, perché esistono solo sentenze a favore di Maradona in sede penale, in sede tributaria. Quindi capisce la persecuzione, diciamo. Non solo chi la subisce, io penso che se lei venisse spogliato degli orecchini, dell'orologio, delle scarpe ogni qualvolta esce a casa, forse un po' si arrabbierebbe anche lei. Un'ultima domanda, avvocato, è questa: ma Maradona a questo punto viene in Italia perché c'è un'udienza settimana prossima, verrà o visto questa situazione non verrà? Che Maradona era pronto ad arrivare stamattina in Italia per la conciliazione, per mediare con, evitare ovviamente una causa di risarcimento, perché lui non ha nessuna intenzione di speculare contro lo Stato italiano e aveva proposto una mediazione per una pace sociale. Ah, stamattina, poteva venire stamattina a firmare la mediazione, invece poi, ovviamente non. Invece l'Agenzia delle Entrate Italia hanno rifiutato la mediazione. Chi è assente ha sempre torto, del resto Equitalia non viene perché forse non ha nulla da dire, come fa a venire e a dire devo percepire 40 milioni di euro se non ha le prove, ecco il motivo per cui non viene. E Maradona ha detto testualmente: se la legge in Italia non è uguale per tutti, allora non vengo, aspetto che i giudici mi chiamino, quando mi vogliono io sono a disposizione. Quando lo chiameranno verrà? Perché sennò potrebbe anche non venire, sta all'estero. Lui è un uomo libero, diciamo che può venire in Italia quando vuole perché è completamente libero, ripeto, non esiste nessuna sentenza di condanna. No, certo, però non deve portare gli orologi, capisci? Però purtroppo è un perseguitato perché esiste una modalità che permette a una società privata, a una società per azione di avvicinarti e di vignolarti gli orecchini, la casa, la macchina, il conto corrente. In Italia esiste questo potere. Siamo in una democrazia. Va bene, io avvocato la ringrazio, staremo a vedere come si comporterà il PIBE d'oro. Grazie per essere stato con noi, l'avvocato Angelo Pisani, il legale di Diego Armando Maradona, per questo contenzioso col fisco. Equitalia ha rifiutato di un'offerta di 3,5 milioni di Maradona, che ci dice il suo avvocato, pur non avendo nessun problema sportivamente, aveva offerto questa cifra. Ma le tensioni sociali legate a Equitalia non solo, sono certo anche di altro tipo. Il ministro dell'Interno ha detto attenzione alla TAV, ma attenzione anche preoccupa Equitalia. Le tensioni sociali, di questo continuiamo a parlare. 800 24 00 24, tra poco con altri ospiti. Siamo qui alle 8:37 minuti. Allora, il ministro dell'Interno Cancellieri, in un'intervista alla Stampa oggi, a Guido Ruotolo, dice che il timore ora soprattutto è che il terrorismo anarco-insurrezionalista possa strumentalizzare il dissenso e colpire chi ha responsabilità nei lavori per le opere della TAV, del treno ad alta velocità. Dunque la TAV, ma non solo, anche Equitalia, Agenzia delle Entrate, con purtroppo anche gli attentati che ci sono stati nei giorni scorsi, l'ultimo in ordine di tempo a Livorno, e soprattutto sullo sfondo quello che c'è stato, cioè l'attentato vero e proprio con la gambizzazione dell'amministratore delegato di Ansaldo Energia, e il rischio davvero che frange anarchiche possano colpire nuovamente, come c'è scritto nella rivendicazione che è stata spedita al Corriere della Sera, di cui saluto l'inviata Fiorenza Sarzanini, che è con noi. Buongiorno Fiorenza e bentrovata. Buongiorno a voi. Saluto anche Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista. Buongiorno Ferrero. Buongiorno e salve agli ascoltatori e ascoltatrici. Intanto Ferrero, queste parole sul treno ad alta velocità, un territorio, una popolazione che lei conosce anche bene territorialmente, come le interpreta lei questo allarme del ministro Cancellieri? Ma devo dire che ieri ce n'era stata un'altra dichiarazione del ministro che mi aveva trovato molto negativamente colpito, perché aveva fatto un collegamento diretto. Io penso che c'è un errore, che è questo: il terrorismo si combatte con l'intelligence, con le indagini, con tutto, e diciamo così, isolando politicamente il terrorismo. Qualsiasi cosa che invece tende ad accomunare un conflitto sociale con il terrorismo, secondo me fa un favore ai terroristi. E io penso che sia molto sbagliato insistere, come si sta facendo da tempo, su questa cosa della Val di Susa, che non aiuta nulla nella lotta contro il terrorismo e tende a mandare un messaggio sbagliatissimo. Ma è chiaro che, voglio dire, non credo che le parole del ministro sia quello di accomunare, ma l'idea di dire che quello può essere un brodo di coltura dove purtroppo si possono infilare anche degli ambienti anarco-insurrezionalisti che tutto hanno di volontà tranne che combattere, protestare, come si può fare legittimamente contro un'opera, ma volere approfittare per altri scopi, questo non c'è di rischio, secondo lei? Guardi, il problema è questo, che in Val di Susa le azioni di lotta che si fanno, dalla manifestazione, diciamo il corteo, a quella magari di fare un atto di disobbedienza, tipo di andarsi a legare alle reti o di tagliare, come è stato fatto, delle reti, sono prese in assemblea pubblica, dove possono partecipare tutti, da centinaia e centinaia di persone e praticate da migliaia di persone. Se c'è una cosa che è il contrario del terrorismo, è quello che avviene in Val di Susa. La cancelliera dovrebbe dire: in Val di Susa abbiamo un problema perché c'è una popolazione che non è d'accordo con un'opera che gli viene fatta, che è dannosa, aggiungo io. Ma quello è il problema, non c'entra nulla col terrorismo. È una frangia, diciamo, terroristica. Che cosa c'entra con quei processi decisionali lì? E che cosa significa che il ministro dell'interno faccia un'intervista di questo tipo? Che in Val di Susa non bisogna più lottare contro la TAV perché c'è il rischio che qualche matto si metta a sparacchiare in giro? In questo senso chiedo che cosa serve una cosa così. Io l'unica cosa che capisco è che una persona, diciamo, non informata o mediamente informata, pensi che c'è una connessione tra la lotta contro la TAV e il terrorismo, e penso che questo è veramente il contrario di quello che bisogna fare. Lì bisogna capire se è una connessione, come lei insiste, oppure se nella protesta, che nella stessa intervista lo stesso ministro Cancellieri riconosce legittima, nel senso dice: se la popolazione è contraria va bene, però all'interno di questo contesto, magari dai contorni poco sfumati, c'è il rischio che, certo, non partecipando alle assemblee democratiche a cui lei fa riferimento, ma si intrufolino anche degli elementi poco raccomandabili. Però mi faccia sentire la Fiorenza Sarzanini, che il polso del Viminale del Ministero dell'Interno lo conosce bene. È una perché il ministro Cancellieri è arrivato a fare questa uscita, oltre ovviamente a parlare di Equitalia, di Agenzia delle Entrate, di tutti gli altri rischi e gli obiettivi sensibili, Fiorenza? Ma ieri in realtà c'è stata, diciamo, una correzione, perché secondo me il ministro prima ha detto una cosa, e cioè appunto ha fatto una connessione tra le proteste della TAV e il terrorismo, poi si è resa conto di aver detto una cosa impossibile, non vera, e quindi, diciamo, ha corretto il tiro, anche perché poi i comitati giustamente subito si erano arrabbiati molto proprio per questa paragone infelice. Su questo io sono d'accordo con Ferrero, non si può mescolare cose diverse, perché che c'entra? Anche il terrorismo trovava negli anni 70 brodo di cultura nelle fabbriche, ma questo non voleva dire che gli operai erano terroristi. E comunque in questo caso specifico il ministro Cancellieri sa bene che gli stessi anarco-insurrezionalisti che hanno rivendicato dicono di non cercare il consenso, quindi semmai sarebbe il contrario. Il problema è che purtroppo c'è molta tensione, giustamente alimentata dal fatto che, al di là delle parole, nessuno si aspettava che gruppi anarco-insurrezionalisti potessero passare dai pacchi bomba alle pistole, e quindi diciamo che c'è anche un po', probabilmente da parte del ministro, la voglia di manifestare questa preoccupazione, perché poi il discorso vero è che ci sono talmente tanti possibili obiettivi che anche per gli specialisti e il ministro dell'interno, è difficile districarsi, poter trovare una soluzione per ma infatti anche questa cosa, Fiorenza, dell'utilizzo ipotizzato dell'esercito, che si fa? Cioè sono talmente tanti gli obiettivi, penso solo, ma non per citarlo, ma purtroppo sono state anche prese di mira tutte le agenzie d'Equitalia sparse per l'Italia, piuttosto che tutti gli dirigenti nel Milano. Però allora l'esercito, parliamoci chiaro, l'importante è che noi l'abbiamo anche scritto sul Corriere della Sera, che questa situazione non si trasformi nel pretesto per militarizzare le città come è avvenuto in passato e in altre situazioni. Il problema qual è? Che appunto le sedi non si sa se e quando e dove potrebbero colpire di nuovo. Allora c'è un problema anche di diciamo rassicurare i cittadini che vanno negli uffici pubblici, perché per esempio Equitalia ha decine e decine di sedi in ogni città aperte al pubblico. Stessa cosa riguarda per esempio Finmeccanica, che non ha uffici aperti al pubblico ma ha comunque delle sedi dove lavorano centinaia di dipendenti. Allora diciamo che siccome bisogna mettere una camionetta di fronte all'ingresso che può servire da deterrente, se ci mettiamo la camionetta della polizia o dei carabinieri sottraiamo personale a corpi di polizia diciamo già vessati dai tagli e dai risparmi imposti. Il fatto di poterci mettere dei soldati servirebbe appunto da deterrente, perché è abbastanza prevedibile che qualora si dovesse, uno di queste cellule dovesse decidere di colpire nuovamente, sceglierebbe presumibilmente un posto, una persona non tutelata, anziché diciamo un posto dove c'è la camionetta. Questo è abbastanza chiaro. Ma quindi tra l'altro questo diciamo, cioè va tutto secondo me anche molto ridimensionato, così come secondo me va ridimensionato l'allarme, che ripeto sicuramente c'è, perché c'è stato comunque, nessuno lo può negare, il ferimento di un manager. Però insomma l'emergenza terrorismo, Ferrero lo sa meglio di me, forse è un'altra cosa. Questo sì. 800 24 00 24, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi magari allarghiamo il discorso anche sulla protesta nei confronti di Equitalia, che è inutile negarlo, è purtroppo ha ragione lente in questo momento, più nel centro del mirino anche dell'odio sociale degli italiani. Ferrero, non crede che ci sia un'esagerazione nei confronti, per esempio, di Equitalia? Sembra che adesso sia Equitalia lo spauracchio di tutti gli italiani, quando io credo la maggioranza degli italiani, la stragrande maggioranza, non ha contenziosi con Equitalia. Ce ne sono molti invece che purtroppo hanno contenziosi con Equitalia, ma non si sta esagerando anche nelle parole? Io penso che c'è una situazione sociale pesantissima, con molta gente che sta perdendo il posto di lavoro e moltissimi artigiani, commercianti, piccoli industriali che magari fino a un anno fa, un anno e mezzo fa stavano diciamo bene, o comunque avevano un tenore di vita diciamo da classe media, come si dice, che adesso stanno alla disperazione, e per queste persone non hanno non solo nessun paracadute, si ritrovano da pagare cartelle settoriali più o meno pesanti, con interessi più o meno pesanti. E Equitalia da questo punto di vista ha la funzione del capo espiatorio, cioè lo sceriffo di Nottingham che arriva e quando sei già alla canna del gas lo apre. Allora penso che il problema non si può affrontare come un problema di ordine pubblico, perché non è un problema di ordine pubblico, è in primo luogo un problema politico, cioè cosa fa il governo per ridurre questa situazione di disastro in cui versano milioni e milioni di persone? La notizia di oggi sul Sole 24 Ore è che potrebbero ridurre nel giro di due giorni l'aggio, cioè il costo che va dato all'agenzia, dal 9 al 7%. Magari è una piccola cosa, insomma, però. No, la cosa che fa impressione però è che ci sono misure, questa di ridurre gli interessi, diciamo, ma l'altra sarebbe quella di compensare tra diciamo debiti e crediti, di compensare tra diverse amministrazioni, arrivano sempre dopo che c'è un casino. E la stessa cosa, guardi, il problema è sulle banche. Noi siamo davanti a uno scandalo, che le banche private prendono i soldi dalla banca centrale all'1% e li prestano a strozzinaggio, perché li prestano ai tassi di interesse del 10-12% alla gente che ne ha bisogno. Che cosa aspetta lo Stato a intervenire? Che cosa aspetta a fare una banca pubblica che presti i soldi ad un tasso da cristiani e non da strozzini? Allora, il problema che vedo io, e finisco, è che in per questo mi sono arrabbiato molto col Ministro degli Interni, è che di fronte a una situazione di disagio sociale che si sta allargando a dismisura, invece che discutere seriamente di come diavolo si affronta, e si discute della minaccia terrorismo, sì, allargandola su tutto. Ma secondo lei non c'è, cioè il terrorismo forse è la parola esagerata, ma non c'è il rischio che, voglio dire, una settimana fa, 10 giorni fa, un uomo armato è entrato in un'agenzia, no, in provincia di Bergamo, no, di Equitalia, voglio dire, magari non è terrorismo, ma che gesti anche inconsulti possano portare. Ma è evidente che c'è questo rischio. Ma allora, se c'è, bisogna sapere che il terrorismo, cioè quello, diciamo così, che è un fenomeno politico, cioè di chi si organizza e pensa e si struttura per andare in giro a sparacchiare, quello lì si combatte con l'intelligence e con le indagini. E poi invece c'è un disagio sociale, perché io sfido chiunque a riempire l'Italia di camionette e a immaginare che un imprenditore parta al mattino con la pistola e si asserragli dentro. Ma lei si rende conto che Confindustria non ha firmato il comunicato di condanna di che cosa avviene su Italia? Vuol dire che in Italia c'è una situazione che appunto sta bollendo pesantemente, sì, e il governo deve decidere se affrontarla come Bava Beccaris a fine 800 oppure se affrontarla con la mentalità. Secondo lei questo è il rischio un po'? Cioè, questo legge nelle parole del ministro Cancellieri? Diciamo che non vedo nessuna misura che vada nella direzione di ridurre il disagio sociale. Vedo un governo che dice c'è rischio coesione sociale, c'è rischio, che non fa nulla per ridurlo, anzi le misure che sta prendendo lo aggravano, e dall'altra che inizia a dire c'è il rischio terrorismo e allora adesso la Valsusa, magari sì, tra 15 dice, giorni sarà l'articolo spostare ma anche la situazione. Mi lasci sentire un ascoltatore, Luciano da Milano, che ci ha chiamato l'800 24 00 24. Luciano, buongiorno. Buongiorno a lei, innanzitutto faccio i complimenti a lei e alla presentata, sì, per dare spazio alla voce appunto degli italiani. Ma riguardo al tema appunto allarmistico del terrorismo, a me è venuta una domanda. Io ho fatto parte per anni dell'Arma dei Carabinieri. Non direi allarme terrorismo, sebbene la gamizzazione di un manager di Finmeccanica lo possa fare pensare. Ma mi è venuto in mente qualche cosa d'altro, cioè una volontà magari da parte di qualcuno di voler spostare l'attenzione da parte degli italiani che sono soffocati da questa crisi, che non qualcuno hanno chi dica crisi. Qualcuno dica chi, perché dire di qualcuno, guardi, avendo lavorato per anni in determinati settori, potrebbe essere anche le forze politiche. Io non mi posso dimenticare di ciò che è accaduto anni addietro e di come avveniva, dei meccanismi che c'erano dietro. Esistono i servizi, esiste la politica e quando occorre determinate persone. Cioè lei ci sta dicendo che un fatto è accaduto, la gambizzazione, ma lo si sta esasperando da parte di qualcuno appunto per cercare di spostare l'attenzione dai veri problemi? Spostare l'attenzione mediatica e facendoci, almeno a me viene da pensare questo, cioè un popolo sotto la paura e portato in qualche modo un po' anche alla fame, si governa molto meglio. Va bene, no, si fermi qui Luciano, perché vorrei fare la considerazione conclusiva con Fiorenza Sarzanini. Allora, qui Luciano ci ha dato questa lettura, Fiorenza, e Paolo Ferrero ci dice è un po' una repressione. In realtà pare che no, la lettura dell'ascoltatore fosse addirittura diversa, cioè non che che ci sia qualcuno che ha provocato questo ferimento. Sì, ma adesso non so se è provocato, comunque che lo strumentalizza per spostare l'attenzione da problemi più grandi. Come diceva Ferrero, la situazione già è molto drammatica per i cittadini, non fino a prova contraria, diciamo che non aggiungerei dietrologie. No, questo no, ma l'idea che dice Ferrero della repressione alla Bava Beccaris, ecco, questa immagine molto dura, insomma, la repressione. Beh, il rischio sicuramente c'è, è appunto mettere, come dicevamo, le camionette in giro per l'Italia, Fare accostamenti pericolosi non solo sulla TAV, perché poi appunto in questi giorni non solo il ministro, però molti comunque analisti, esperti, anche politici hanno fatto dei paragoni con terroristi come quelli che hanno assaltato la sede di Equitalia. Diciamo che c'è una grande fermento e l'importante generalmente in queste situazioni sarebbe quello di cercare di abbassare la tensione anziché acuirla, anche perché appunto se si comincia per esempio a parlare di TAV, di proteste della TAV, ho timore quando poi ci sarà una protesta democratica del comitato NoTav che davvero lì qualcuno possa strumentare. E che qualcuno si possa dire ecco che cosa succede. No, io qui vi devo fermare per il momento. Vi ringrazio Fiorenza Sarzanini, inviato del Corriere della Sera, e Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista. Che dire, ci trovate anche su Twitter, @AlinoMilan, sono io, @24Mattino, la trasmissione. A domani. 24 Mattino.